portare, randalla portare l'innamorata. L'anima se ne sai in paradiso, lo corpo si lo chiagna, si lo corpo si lo chiagna, lo corpo si lo chiagna la scassata. Chiamatemi Isabella, chiamatemi Isabella, la sventurata. Isabella, chiamatemi Isabella, la sventurata. Una sangue nato scende fortunato a chi s'appella. Una sangue nato scende fortunato a chi s'appella. Chi s'appella lo governa, io calamba e piglio terra. Chi va in coppa non m'ha tutti, chi va sotto va chiù sotto. Chiamatemi Isabella.